confini invisibili. Su, vieni, vieni, la gelosia è insopportabile. E quanto è che si sono dati il cambio? 2 minuti? 5 di più? Il mio senso del tempo si è guastato. Anche le macchine più esatte hanno sempre il difetto di una sensibilità eccessiva. Spero che non sia successo qualcosa. A lui? O alla moglie? Non avrei mica ammazzato tua moglie, imbecille! Con la gelosia non si sa mai. Ho bisogno di sapere cosa è successo, parla! Ho anche il mio senso critico, non funziona più, divento pazzo, divento pazzo, divento pazzo! Ebbene che c'è, eh? Come si è comportata la mogliettina? Segni sospetti! Nella borsa di sua moglie? Nel letto? Nella spazzatura? Signor carceriere, non si lasci ingannare dalle apparenze. Si fidi di un uomo che ha esperienza. L'infedeltà delle donne non si manifesta in generale con la frigidità. Al contrario, a letto diventano più attenti. Sono stato brutale. Dovevo esserlo. Invece di un Otello si era trasformato in un marito docile e sottomesso. Sua moglie evidentemente gli aveva preparato i suoi manicaretti preferiti. È difficile nutrire dubbi sulla fedeltà di una donna che ci fa bene da mangiare. Dunque, non c'è stata alcuna tragedia in casa sua, eh? Al contrario. Ci sono state scene d'amore da luna di miele, e si capisce, con la luna piena e il lilla in fiore, beh, meglio così, eh? Se l'avesse uccisa sarebbe peggio. È più facile rendere geloso un marito innamorato che un marito vedovo. Sua moglie ha riportato la vittoria. Per il momento. Sarò obbligato a ricorrere a metodi più sbrigativi. Finora ho detto molto male di lei, ma d'ora in poi sarò spietato. Non posso conquistare la mia libertà che calpestando il suo onore, passando sul suo cadavere. C'è qualcosa di simbolico in tutto ciò. Sono venuto al mondo attraverso un corpo di donna e un corpo di donna, vedrai, mi farà uscire di qui. Vedi? Vedi com'è educato? Se il signor carceriere desidera liberarsi del peso che ha sul cuore, eccomi pronto, ma niente falsi pudori. La discrezione di un ergastolano è come la discrezione di un confessore, a parte si capisce le diverse esperienze in campo amoroso. Fuori i particolari, il viso, gli occhi, la bocca, tutto conta. E il suo... suo ombelico, perla in un piatto d'oro. Adesso gli darò del tu. Dimmi, figliolo mio, dimmi. Calma, calma, qualche particolare. No. Davvero, eh? Davvero. Sì, ma rimaniamo all'ombelico, eh? Ma no, piangere non sta bene. Si sta perdendo nei particolari. Il suo senso anatomico è molto divertente. Però sua moglie per me non rappresenta un fine, ma un mezzo. Lo devo far passare dalla gelosia passiva alla gelosia attiva. Lo devo spingere all'azione. Non mi meraviglierei che sua moglie finisse davvero per tradirlo. Non so cosa ci troverà in quest'uomo. Va bene, bene. Consiglio però di riflettere a quello che dovresti fare. Eh no, figliolo mio, non è prevenire che interessa, ma sorprendere sul fatto. Figliolo mio, bisogna che tu ci pensi nei tuoi momenti liberi. Eh? Penserà. Ma non è lui che ci penserà, sono io che ci penserò al posto suo e programmerò l'azione nella sua testa. Sono io la sua volontà. Sono io il suo guardiano. Sono riuscito a renderlo geloso del capo carceriere e del direttore della prigione. Psicologicamente è necessario che detesti tutti i suoi superiori fino al ministro della giustizia. Dio deve aver avuto la mia stessa soddisfazione quando si è reso conto che la creazione procedeva bene. Voleva inventare la luce, eh? E la luce fu. Inventare la cimice, la cimice ci morde. Non riesco a capire perché tu non sei in adorazione davanti a me. Non ammirazione, eh? Adorazione. Beh, ci arriverai. Pochi individui hanno avuto la fortuna di vivere con un genio. Oh, e con un genio simpatico per di più. Non so come te la saresti cavata con Einstein, eh? Einstein, il padre della relatività. Sei triste, vero? Perché io me ne andrò e tu mi perderai. Ma per te resterò uno stupendo ricordo. Hai visto un genio all'opera nell'atto di creare. Promettimi che parlerai di me, eh? Non portarti il segreto nella tomba. L'umanità ha il diritto di sapere qualcosa su di me. Pensa un po' se i quattro evangelisti fossero stati analfabeti. Oh, ma almeno sai scrivere. Ma perché fai finta di dormire? Beh, puoi farlo. Dio non ti ha domandato di essere geniale come lo sono io. Ti ricordi all'inizio come erano stupidi i nostri piani, eh? Piani da imbecilli. Allora la cosa ti entusiasmava ancora e ti interessava. Certo, benissimo, ci procuriamo una mazza di ferro e facciamo fuori il guardiano. Come Montecristo. L'uomo parte sempre dal basso. Che esseri antidiluviani eravamo. E dov'è? La mazza di ferro, eh? La vittoria è sempre dello spirito. Come la scimmia si è trasformata in uomo, così io mi sono trasformato in genio. E da uomo libero darò vita a una serie di piccoli geni. Mi sono inserito nel progresso dell'umanità. Mi sono diventato un anello indispensabile. Tu sei uno stupido scimmione e io sono l'anello mancante darwiniano. Ora almeno sai la differenza che passa fra noi. Perché mi guardi così? E tu sei la palude. Il bisonte nella palude. La tartaruga nella palude. Un rettile arcaico. Ehi, parlo a te! Ma come puoi essere così impotente? Insensibile. Pigro. Inerte. Cadavere vivente. Fossile. Ultrafossile. Ma come puoi essere così grasso, eh? Guarda me, eh! Uno, due, mi sono conservato bene, una vita sottile come quando ero ragazzo, mense sana, in corpo sano, mente sana, in corpo sano. E lei, signor carceriere? Mi dica, ma non è stupito che quando è in servizio lei, i suoi colleghi spariscono tutti, eh? Dove pensa che vadano? Io faccio esercizi ginnici e ragiono. Hop! È una cosa che fa affluire il sangue al cervello. Si dice che il direttore di questo carcere oggi sia introvabile. Ma dove sarà? Avrà un appuntamento? E il cappellano 3 giorni fa è arrivato in ritardo all'esecuzione. Hanno dovuto rianimare a schiaffi l'impiccato per dargli i conforti della religione. E se lei per caso trovasse un bottone di foggia chiesastica? In casa, sul sofà, Lo so, sua moglie è un angelo, una santa, è ovvio, ma proprio a causa di certe sante le prigioni sono piene di assassini. La prego di fare attenzione a quest'aurea massima, Quando un angelo commette adulterio, spezza anche la nostra fede nell'innocenza. E sa, signor carceriere, più che triste è... Adesso arrivo all'essenziale. Ma perché non sono un uomo libero, eh? In questo caso lei non dovrebbe torturarsi così. Provvederei io. Certo. Un visino d'angelo, Non devo precipitare le cose. E questo cos'è? La Madonna. Vediamo un po' se guardando questo viso d'angelo mi convinco anch'io che non è poi una gran puttana, eh? Il suo sguardo è triste. Come se sapesse ciò che ho detto di lei. Nessuna pietà, Meglio un po' di ginnastica su, Contro l'erotismo non c'è niente di meglio che lo sport, lo dicono tutti. Uno, due. Da tanto non vedevo un viso di donna. Pensavo ad altri particolari, mai al viso. Immaginavo... un bel seno, immaginavo un seno così come mi piaceva in quel momento, ma il viso mi è sempre mancato, e ora... sapevo già su di lei che sotto il seno a destra ha una voglia di fragola che non si depila le ascelle, che ha la pelle delicata, dei capelli di seta che è bello morticchiare, e la sua freschezza, il suo ardore. Ma comincia a piacermi solo ora che conosco il suo viso. C'è in lei qualcosa di angelico. ti pare? Eh? Che c'è? Non ti piace? Guarda, guarda. Proprio... proprio una Madonna. E pensa che ha anche una voglia di fragola sotto il seno. Ti piacerebbe, eh? La prigione non ha ancora spento in te l'ultima scintilla di virilità, bel maiale! Io ho detto molto male di lei, ma... era una mia tattica. Non la conoscevo. Sapevo come si comporta a letto, ma non... non come era la sua anima. Basta, non lo farò più. La libertà non è necessaria. Ci bastano queste quattro mura. Neanche le donne sono necessarie. Non ho bisogno di donne io. Non voglio più la libertà. A un prezzo del genere, no. Imputridiremo qui. Tu ed io. E vincerò la disperazione pensando che ho sacrificato la libertà per l'onore di una donna. E lei non lo saprà mai. Poi starò anch'io qui, immobile, a contemplare il soffitto. Sarà più difficile per il mio spirito inquieto, eh? Potremmo provare a giocare a scacchi alla cieca, eh? No, non sai giocare a scacchi, peccato. Facciamo a chi si ricorda il maggior numero di celebrità in ordine alfabetico, eh? Se l'arcivescovo di Costantinopoli si disarcivescovo di Costantinopolizzasse, se l'arcivescovo di Costantinopoli si disarcivescovo di Costantinopolizzasse, se l'arcivescovo... Proviamo a contare col sistema binario. Non ti interessa, eh? E se ci raccontassimo dei film che abbiamo visto, eh? Impariamo qualche lingua. Inventiamo qualche lingua. Dimostriamo l'esistenza di Dio, eh? Hai ragione. Niente può sostituire la libertà. Perché mi fissi, eh? Pensi che io non possa accettare la prigione? Posso farlo. È il luogo più adatto a questo universo arido. Fiori, amore, nidi d'uccello sono errori di stile. Solo la prigione è in armonia completa con i crateri della luna e i soli spenti. Ma me ne fotto delle zone verdi che ci sono tra la prigione e la Via Lattea. Mi chiuderò per sempre le porte della libertà. Lo scopo della mia vita è questa donna. Stanotte insegnerò a un angelo cos'è l'amore. Una donna reale. Un atto reale. Comincio ad avere le ali. comincio ad averli. Signor carceriere! Ah, è già lì, eh? Vede, lei... Lei è sempre stato tanto buono con me, io ormai non ho un granché da perdere. Un omicidio in più o in meno sulla coscienza. Andrò io per lei. A cogliere sul fatto sua moglie. Lasci fare a me. Devo averlo deluso. No, ritornerà. Gli do 5 minuti per rassegnarsi alla perdita della moglie. A nessuno occorrono più di 5 minuti per una cosa del genere. 5 minuti, tra poco, e tutto si risolverà. E lui me lo procurerà. Poi dovrà lasciare la porta aperta e sparire dal corridoio perché non sospettino di lui. Sì, mi farà scappare. E correggimi se sbaglio, l'ingegno manca di senso critico. Mi farà evadere. Gli lascio il mio posto qui sul tavolaccio e lui mi lascia il letto di sua moglie. Bisogna che gli chieda la chiave di casa. Tutti questi particolari sono una tale seccatura, la chiave di casa. Capisco Michelangelo che lasciava incomplete molte delle sue statue. Se uno proprio vuole, prenda lo scalpello e vada avanti. Dopo è così noioso, ordinario, banale, scavalcare il muro, dileguarsi nella notte, arrivare sotto le finestre della donna, chiave di casa, e poi l'idillio. Ma davvero... portare a termine la faccenda. E non ti agitare, eh? Posso sedermi, eh? Anche Dio si è riposato un attimo dopo la creazione. Lascia che prenda diletto la mia opera. Tanto nella sua sostanza è pronta, eh? Un bel lavoretto. Proprio bello. Questa è superbia. Un brutto vizio, lo so. Ci vorrebbe un po' di umiltà, ma non ce l'ho. Non riesco a essere umile. Sarebbe ipocrisia, eh? Aveva ragione Goethe. Nur lumpen sind bescheiden. Goethe era un poeta tedesco. E Michelangelo, uno scultore italiano, ah. Puoi inorgoglirti anche tu. Hai partecipato alla mia opera. Hai collaborato con me, anche se involontariamente, eh? Mi sarei anche affezionato a te, se fossi stato più gentile. Intelligente. Dio sa cosa sarebbe successo, eh? Un'amicizia particolare, che c'è di strano, la vita di prigione è contro natura, eh? Non c'è da meravigliarsi, io un maniaco, tu un depresso, e il guardiano uno psicopatico, perché è un carcerato anche lui, eh? Il custode. Quanto sarebbe più semplice se potessimo... dirci altre cose. Scusi, fiorisce prima il croco o il narciso? Oppure, com'è il profumo della bistecca sulla brace? Come due uomini che si rassegnano a restare uomini per tutta la vita. È tornato. I 5 minuti sono passati. 5 minuti. Un'eternità. Terribile come fa presto uno a lasciarsi prendere dalla disperazione. Si capisce che ha tardato. Doveva procurarmi un vestito. E sotto sotto ho sempre invidiato la tua ammirevole. Bestiale. Stupida brutalità, senza intelligenza.